des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'aval de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà infâme bail, ça fait déjà infâme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle. Devo dire che quella di questa mattina è per me una trasmissione molto sofferta, per tutta una serie di ragioni. Alcune le espliciterò questa mattina, altre me le terrò per me. Esiste un momento in cui uno deve fare i conti con se stesso. Esiste un momento in cui alcune verità rispetto al proprio modo d'essere profondo, ai propri comportamenti, è giusto che vengano fuori. Capita molte volte a molti di noi che qualcuno sottenda su alcune ambiguità della loro natura, dice ma tu fai certe cose, sei in un certo modo. Uno dice no, mi sembra impossibile, figurati. Quando uno però ha le prove palesi, schiaccianti di questa sua doppiezza, di questo suo modo d'essere, a un certo punto deve darne conto anche al mondo. Questa mattina farò un coming out, farò una confessione, farò qualcosa che mi costa molto, però poi mi sentirò più liberato quando mi sarò tolto questo peso dallo stomaco e soprattutto incoraggerò tutti quelli che soffrono in silenzio la loro ambiguità, il loro problema, non hanno il coraggio di portarlo alla luce del sole, non lo dicono apertamente, sono macerati dal dubbio sarà vero o non sarà vero, lo farò o non lo farò, sarò così o non sarò così. Finché arriva qualcuno che alla fine quelle che erano soltanto illazioni, presupposti, semplici deduzioni, diventano realtà. Vieni messo di fronte alla tua vera realtà, o perlomeno a un lato nascosto della tua realtà che tu non sospettavi di avere. A voi è mai capitato che qualcuno dicesse attenzione tu la notte russi? No, mai, figuriamoci, io russo, ma che non dire stupidaggini? Quante volte la vostra compagna o il vostro compagno timidamente vi ha dato un colpettino dicendo scusa, puoi far meno di far meno rumore? E voi che avete la convinzione, l'esatta certezza di stare svegli in quel momento, assorti nei vostri pensieri, state guardando il soffitto, state guardando un punto nell'infinito, la vostra camera da letto, o peggio ancora, questo potrebbe avvenire sul divano, molto spesso sul divano, davanti al televisore. State lì, guardate un programma, vi assopite leggermente, ma state in quello stato di dormiveglia in cui avete perfetto controllo di voi stessi. E qualcuno dice, guarda che stai russando. Dice, ma non dire stupidaggini, io non russo. Perché noi attribuiamo a russare questa terribile attività che facciamo quando non siamo padroni di noi stessi, un senso negativo, russa al vecchio, russa all'ubriaco, russa al derelitto, russa allo schifoso. No, sappiamo poi invece che molte deliziose persone con le quali in momenti fortunati della nostra vita abbiamo diviso letto, divano e intimità, ogni tanto in quel lieve assopimento dopo le fatiche amorose, ogni tanto qualche russatina la facevano, ma noi ci siamo ben guardati di dirlo, direste voi una signorina tu russi. Poi dopo ci si sposa, poi ci si rende conto che la moglie è russa e poi diventa una battaglia nel farla smettere di russare. Ma dal punto di vista dell'altro coniuge, anche le mogli si lamentano che i mariti russano, ma in realtà il russatore è inconsapevole, non se ne rende conto, non ha assolutamente cognizione del suo russare. Se solo una volta il russatore si vedesse nell'attività di russare, improvvisamente sarebbe come se vedesse di fronte il lato oscuro della sua personalità, come quello sono io faccio queste cose, sembra impossibile. E a un certo punto il Mr. Hyde emerge dal Dr. Jekyll che siamo noi. E vediamo la parte mostruosa di noi, la parte demoniaca, la parte infestata. Sì, perché quando russiamo siamo un'altra cosa. Quando russiamo c'è una voce che non è la nostra. Quando russiamo è come se noi fossimo posseduti. Perché questa mattina faccio il mio coming out? Io sono stato un impropriamente accusato di russaggio spesso. Qualche sospetto l'ho avuto l'altro giorno, tornando in aereo a un certo punto, era una giornata faticosa, avevo sollevato tutta la notte e tutto, a un certo punto sentii come una sorta di gorgoglio, un rumore strano, lo attribuì a un beccheggio dell'aereo per una turbolenza in atto, non mi resi conto che mi stanno guardando tutti gli assistenti di volo, i signori vicini a me, per un attimo ebbi la sensazione, ma forse stavo russando, mi ero addormentato, ma no, non è possibile. Tornai a casa, ero molto stanco, abbracciai la mia famigliola riunita, gioiosa, non vedo l'ora che tornasse, mi misi davanti al televisore e cominciai a pensare, a ragionare, pensavo alla giornata che era passata, pensavo al giorno dopo che dovevo venire da voi. E come cade, rimasi assorto lungamente nei miei pensieri. A un certo punto sollevai il volto dai miei pensieri e vidi che ridevano tutti, moglie, figli, facevano grandi risate. Dico, ma che c'avete da ridere? Dico, non lo so, ridevano, contenti, ah, sembrava una festa a casa mia improvvisamente. E mi resi conto che covavo delle serpi in seno. Mia moglie, con la complicità dei miei figli, mi aveva filmato sul divano e aveva messo di fronte implacabilmente la prova di quello che realmente ero io. Dopo 20 anni che stavamo assieme, finalmente ho avuto la prova della realtà, della giustizia, della verità di tutte le illazioni, tutte le accuse, di tutti i motivi di dissolvimento, di cacciata a dormire sul divano, di lite. Ma perché mi dici che ho russo? Non è possibile, sto sveglio, non sto russando. Ebbene, questa mattina, con un gesto che mi costa moltissimo, veramente, con un gesto che mi augurò che chiunque di voi che appartenga a questa sorta di maggioranza silenziosa dei russatori, che deve vivere nella vergogna, che deve vivere nell'emarginazione, nel sospetto, beh, oggi è il Russator Pride, il giorno dell'orgoglio del russatore. Io, con un gesto, probabilmente radio mi costerà moltissimo, vi farò ascoltare soltanto per un istante l'audio della registrazione del video. Immaginate, chi frequenta il mio profilo Facebook l'avrà visto anche chiaramente, perché è un giorno che l'ho messo per dare l'avvio a questa sorta dell'orgoglio russatore. Ci sono io seduto su un divano in posizione di riflessione, quindi con un braccio piegato sopra la testa, con l'altra mano mi appoggio il capino, con gli occhiali, con un giornale sulle ginocchia, sto guardando il televisore, sto leggendo le notizie, ho il mio iPad appoggiato sul bracciolo del divano e sto riflettendo e pensando. Quello pensavo io, in realtà facevo questo. Ecco, questo sono io. Sentite la mia voce, sentite il demone che si sprigiona da me quando dormo. E pensate, questo accade a tanti di voi. Questo è il momento in cui voi vi svegliate. Quante volte vi hanno detto stai russando? E voi avete protestato. Dice, io non russo, ma ti pare che io russo? Ma soprattutto le signore, le signorine, le ragazze, le fanciulle, può uscire dalla deliziosa bocca a cuore di una ragazza qualcosa di così orribile? Ve lo faccio riascoltare soltanto un attimo, perché ognuno di voi deve prendere un contatto deciso e sincero con questa realtà. Anche voi, spesso, quando dormite, quando siete seduti sul divano, quando vi appisolate, e quando state nel sedile dell'automobile che non guidate, quando siete in vacanza, quando siete al mare, quando siete durante una riunione di lavoro, a me è accaduto, e adesso mi rendo conto che le mie colleghe avevano ragione, un giorno nella sala d'attesa di Radio 24 a Milano. Vedevo che a un certo punto ero sveglio e tutti ridevano attorno a me. Dico, ma che c'avete da ridere? Qual è la festa? E nella loro pudicizia, nel loro rispetto, nella loro tenerezza, le mie colleghe non hanno il coraggio di dirmelo. Soltanto la più sfacciata mi disse, ma stavi dormendo e russavo. Dico, ma ti pare che ho russo? Ma figurati, i vecchi russano. Ma in effetti facevo esattamente questo. (800) 24 0024. Questa è la giornata dell'orgoglio di chi russa, ma anche della giustizia e del rendere conto a chi ha sempre subito un russatore. Poi vi daremo i numeri, vi daremo le statistiche, vi daremo le cause fisiologiche, vi faremo capire quanto russano gli italiani, se russano più gli uomini e le donne, ma portiamo alla luce la realtà del russare. Non è che sia un'attività schifosa legata ad altre rumorose attività che può compiere il corpo umano, ma il russare è qualcosa legato molto alla nostra intimità. Ci sente russare chi dorme accanto a noi, ma non soltanto. Il russatore compulsivo, quale mi sono accorto di essere io questa mattina, russa sempre, russa appena si siede in aereo, allaccia la cintura di sicurezza e dice che bello, mi faccio un sonnellino, e russa. Nessuno ha coraggio di dirglielo, ma sta russando, magari trema tutto l'aereo, tutti pensano all'immagine imminenza di un incidente, ma è lui che russa. Russa al lavoro, si appoggia un attimo sulla scrivania, finge di lavorare davanti al monitor, si lascia andare quella bellissima senso di spaesamento, di sconfinamento, di uscita dalla realtà, ma in realtà è un russatore, russa, diventa lo zimbello dei suoi colleghi, perde fascino, perde appeal, perde attenzione. Non è meglio che lui confessi subito in partenza, io sono un russatore, si fa una bella medaglia, ho scritto io russo, come quelli che girano con un cartellino, attenzione, nel caso dovessi star male datemi questo farmaco. Uno si scrive addosso, io sono un russatore, quindi lo sanno, quello russa, vedi, ma sarebbero tanti, perché la percentuale dei russanti è altissima. Perché è oggetto di vergogna russare? Voi avete sentito quello che vi ho fatto ascoltare è un russamento di essere umano. Mi sono reso conto che su YouTube esiste una casistica enorme di persone riprese mentre stavano russando. E la cosa terrificante, questo ci spaventa, gli esseri umani russano nella stessa maniera in cui russano gli animali. Vi farò ascoltare adesso delle russate umane e delle russate di cani e gatti. Sentite, sono perfettamente identiche. Il vero anello di congiunzione fra noi e il genere animale è nel russare. Un gatto, un cane, quando addormentato, sogna russa, è esattamente identico a un essere umano. Il primo era un gatto siamese, i secondi era una coppia di bulldog. Russano nella stessa maniera in cui russo io. Quindi in teoria potremmo parlare nella stessa maniera in cui parlo io. 800240024. Questa è la mattina in cui tutti posso dire tutto quello che hanno da dire, che hanno tenuto nascosto per anni, sul russare, su chi russa, su noi che russiamo, sull'accusa di russare, sulla difesa di chi russa e sull'attacco di chi russa nei confronti di chi vorrebbe dormire. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca, e complimenti per il tema che qualcuno finalmente ha avuto il coraggio di tirare fuori. Guarda, a fare questo coming out mi è costato moltissimo, ho avuto una notte insonne, però questa mattina sono riuscito a tirar fuori il coraggio. Ti seguiamo tutti con coraggio. Sei russatore anche te? Io sono figlio di russatore, fratello di russatore e russatore incallito. Ecco, ma quando hai avuto la consapevolezza, quando hai avuto il coraggio di portare alla luce quella che è la tua diversità? Diversità, poi fino a un certo punto io penso che siano più russatori di quelli che non russano. In realtà, se ci facessimo la conta di noi russatori, saremmo quasi tutti, perché penso che ogni essere umano russi, o perlomeno abbia russato nella sua vita almeno una volta, o abbia fatto l'esperienza della russata. Ma è stata la decisione di una presa di coscienza. Se tutti quanti dicono che russi, evidentemente abbassa lo sguardo e accetta che russi, se lo dicono tutti, mica saranno tutti matti. Per me è stata necessaria la prova filmata, che potete vedere nel profilo Facebook. Quando ho visto e ho capito quale demone orrendo si impossessasse di me quando dormivo, ho fatto pace. Bene, io ho una doppia natura. Questo è un buon esercizio che comunque farò. Comunque io volevo raccontarti un aneddoto, perché mio padre è, penso, re incontrastato dell'isolato a questo punto, del russamento, perché si sentiva proprio a metri di distanza quando d'estate con le finestre aperte. Una volta sentivo la televisione accesa in salone e sentivo contestualmente russare in camera. E ho detto, senti papà stasera che fa? Vado di là in salone, papà era in camera. Era mia madre che russava come mio padre. Sì, ecco, adesso io devo dire che mi apposterò anch'io con la telecamera e renderò pan per focaccia, moglie, figli, perché a casa mia tutti russano, ho sentito russare tutti, non ho più animali, anche il cane russava. Però io non ho mai avuto la perfidia di tracciare prova concreta delle russate familiari. A me l'hanno fatto, l'ho subito, sono contento, oggi ho un peso in meno sullo stomaco. Grazie, Marco, buongiorno. Ciao, buona giornata. Anche lei è un russatore? Marco ha parlato, sì, Enrico allora. Enrico? Sì, pronto. Un russatore? Nicoletti, un russatorissimo io. Ah beh, ma non avete mai avuto il coraggio prima di ammetterlo? Perché no, bisogna scoprirlo, come ha detto giustamente lei. Sa come ho fatto io? Visto che ho sentito prima dire che aveva l'iPad sul divano. Sì. Mia moglie, che mi accusava sempre di essere un russatore, mi ha trovato, c'è un'applicazione apposita per registrare durante la notte. Cioè, quando sento un rumore lui registra. Mi ha messo davanti al proprio computer. Ah, utilissimo, adesso me la scarico subito. Bravissimo, esatto. Fra l'altro non so come, non me lo chiedo, ma ci ho provato dentro anche una parolaccia detta alle 3 di notte, non so cosa stavo facendo. Ah, perché lei parla pure nel sogno? Sì, ma infatti è incuriosito, l'ho registrata per quello l'applicazione. Ma io sono convinto sia una sorta di demone che ci possiede nel sonno, perché guardi, non so, fra russatori ci si intende. Lei non ha la sensazione molte volte di stare sveglio? Quando dicono stai russando, lei vede davanti a sé il comò con lo specchio, il lampadario, la poltroncina con i vestiti sopra, quindi è convinto di essere sveglio. Come si fa a russare da svegli? Non saprei, ma forse la televisione in parte aiuta, perché stimola l'addormentamento. Però quello che volevo dire io a queste mogli Cioè, è come se noi registrassimo, non so... No, no, adesso non entriamo in campi più intimi. Fermiamoci alla russata, fermiamoci alle missioni vocali, perché sennò sarebbe un capitolo che andrebbe molto oltre. Oggi parliamo soltanto di russate, poi non so se avremo il coraggio di andare oltre, ma oggi fermiamoci a russare. Perché? Perché russare, fra tanti rumori corporei, è quello che noi emettiamo nella totale inconsapevolezza, quando siamo in trance, quando dormiamo. È un'altra persona che russa, perché noi non ci sentiamo mai russare se non quando siamo registrati. E mi creda, vedere un filmato, poi fatto bene, girato benissimo, gli è andata anche bene, con una bellissima luce, sembrava proprio fatto da un vero operatore, e si rende conto, dice, ma quello sono io, perché sono immobile, sembra quasi che io non respiri. E esce fuori questo rantolo demoniaco, non capisco bene come e dove. E non è la mia voce, non sono io. Io continuo a rimanere dell'idea che ci sia una sorta di possessione. 800240024. Andrea. Pronto? Sì, Andrea. Io vorrei che anche le signore abbiano il coraggio questa mattina e facciano il loro coming out. Vedo che da Facebook molte donne hanno confessato la loro attività russatoria, la loro doppia natura di russatrici. So che è più pesante, perché la donna deve essere legata alla piacevolezza, alla delicatezza, ma c'è la sua tenerezza in una donna che russa, è come noi, in quello siamo uguali. Quindi un russatore, se ammette la sua compagna di essere una russatrice, si elimina il problema. Scusi, ecco qua, Andrea. Allora, io prima di sposarmi non sapevo che russavo. Finché uno vive solo, infatti, non te lo dice nessuno. Infatti. Poi mi sono sposato e mi sono accorto che lei russava e io credevo di non russare. Poi una mattina mi sono svegliato, mi ha messo il telefono davanti, mi ha detto questo sei te. Era una cosa disastrosa, sembravo, mamma mia, mi sono impaurito da come ero terrificante, una cosa spaventosa. Non sapevo niente di questa cosa. È la stessa impressione che ho avuto io. Lei si è visto russare, ha visto un'altra persona. Si è visto come posseduto. Meno male che non mi sono visto. E da quel momento com'è cambiata la sua vita? È cambiata che ho trovato un'altra compagna. Solita storia, però ancora non mi ha registrato, ma è meglio così. Ma l'accusa di essere un russatore? Come? L'accusa di essere un russatore. Siccome io lavoro di notte, quando torno a casa di solito mi metto sul divano per rilassarmi, tempo mezz'ora, 40 minuti, dopo mi chiudo gli occhi, mi addormento e io sento, oh, che c'è di? E tu russi? È russo, e mica lo fa apposta. Esattamente quello che è accaduto a me, sul divano, che è ancora peggio, perché sa, di notte, il divano di pomeriggio con tutte le persone attorno, è una cosa veramente infame. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Oh, finalmente, anche lei ammette, è una russatrice? No. Almeno che io sappia no. Perché noi uomini siamo più cortesi. Noi non diciamo mai alle nostre amiche, compagne, fidanzate, occasionali complici di fuga che russano. Stiamo zitti perché è una cosa delicata. Voi ce lo spiattellate in faccia, tu stai russando, come se fosse qualcosa di vergognoso. Alla fine è aria che esce dalla bocca, non è niente di male. In realtà per quanto il mio amato compagno russa, non soltanto la notte ma anche durante i pisolini pomeridiani, estivi e quant'altro, mi sono preoccupata perché il suo rumoreggiare è talmente forte che in alcuni momenti io credo che lui non riesca a respirare praticamente. Sì, c'è il rischio di andare in apnea molte volte, ci sono delle patologie. Adesso non è il mio spazio di Nicoletta Carbone, se l'avessi qua vi direbbe tutto. So che si rischia di andare in apnea qualche volta, quindi c'è un aspetto clinico che però questa mattina a me non interessa tanto, anche se è importante. Poi sulle radici profonde della nostra diversità si potrebbero aprire altri capitoli, ma in altre sedi. Qui parliamo dell'aspetto relazionale, dell'aspetto sociale, del russare come oggetto, come sintomo di dissapore amoroso e affettivo. Come può essere superato, secondo lei? Allora, guardi, io semplicemente do una bottarella e comunque mi sono abituata negli anni e dopo che lo smuovo un pochino lui... Basta far cambiare la posizione, vero? Esatto. Però comunque l'ho costretto a mettersi per una notte intera un pesantissimo apparecchio che registrasse appunto il suo russare, ma per la questione appunto di cui le parlavo... E quindi avete voi traccia sonora della russata? Sì, abbiamo una traccia sonora medica in realtà. E quindi adesso vediamo... Si sta curando? Sì. Speriamo. Grazie Cristina. Mi sembra chiaro l'argomento questa mattina, 800240024. Nella seconda parte andremo più al profondo su quelle che sono le maniere per superare questo problema o convivere con questo problema. La diversità di chi russa va rispettata. Chi russa può avere una vita anche tranquilla, anche una vita apparentemente normale, però va aiutato. Aiutateci a noi che russiamo. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Questi sono i sistemi in un film di Louis de Funès, questo comico surreale francese, che prova a far smettere di russare un suo collega, prova in tutte le maniere, alla fine sentite, agisce anche in maniera piuttosto decisa, sì, perché i russatori sono spesso oggetto di angherie di ogni tipo, calci, spinte, rumori improvvisi, male parole. Lo vedo che questa mattina ho dato il coraggio a tanti russatori di uscire allo scoperto, di proclamare con orgoglio la loro diversità, che stanno arrivando tanti messaggi. Giulia, che è una signora deliziosa, lo vedo dalla foto su Facebook, dice: mi sono abituata a russare di mio marito dopo tanti anni. Quello che mi dà fastidio è quando il suo russare mi entra nei sogni e mi procura degli incubi, perché penso di essere inseguita da un orso, con passo scadenzato al ritmo del russare naturalmente. Il sogno cambia di volta in volta, ma è sempre fastidiosissimo. Bruno, mia moglie usa regolarmente i tappi, come dici tu. Quando leggo a letto, appena il demone si impossessa e sto apparentemente ancora leggendo, mia moglie mi chiede di spegnere in quanto sto russando. Quindi sto cominciando ad addormentarmi. Gli amici motociclisti, quando vado in trasferta in albergo con loro, mi pagano il supplemento per la camera singola. Sono tantissimi che stanno facendo questa mattina atti di coraggiosissimo coming out. Una crudele collega della radio mi sta scrivendo su Facebook: vogliamo parlare della tua russata alla vigilia della partenza a Riva del Garda. Beh, no, non girate il coltello nella piaga, ma a questo punto sono pronto a tutto. Io ho avuto il coraggio di ammettere di essere un russatore. La maggior parte delle persone che mi ascoltano statisticamente sono russatori e russatrici. Le russatrici sono in percentuale lievemente minore rispetto agli uomini, ma anche le donne russano. È ora che lo dicano. Sabina, buongiorno. A lei. Una russatrice? Sì, sì, sì. Abbia sì, il coraggio sì, di dirlo, io russo. Ah, certo, no, e purtroppo lo so da molti anni. Quando avevo mio figlio maggiore, quando era piccolo, adesso ne ha 35 di anni, una volta in un albergo c'era solo una camera a due letti per lui e per me. La mattina l'ho trovato ragomitolato sul pavimento del bagno perché non sopportava il mio russare. Era 30 anni fa. Quello che invece io chiedo sempre negli alberghi è che ci sia un'ala per i russatori, perché c'è chi russa così forte. Quindi alberghi dalla... come stanza fumatore e non fumatore, esatto, anche stanza russatori. E nei treni, perché io viaggio spesso in cuccetta e sono terrorizzata all'idea di addormentarmi e quindi di non far dormire gli altri. Però sicuramente in certi momenti mi appisolo. Quindi un atto di civiltà sarebbe... Ma secondo me è necessario. Però non ci sentiremmo emarginati nei russatori se ci dicessero vai nello scompartimento russatori. No, e immagini uno scomportamento con... quale potrebbe essere il logo dello scompartimento russatori? Non lo so. È questo, capito? Una sega che taglia un ciocco di legno, non lo so. Per esempio... Vabbè, ma sarebbe molto. E dovremmo metterci anche noi un marchio addosso per essere additati. Guarda, quello è un russatore. No, invece mi sembra semplicemente un atto di civiltà. Lo so, dovremmo prendere coscienza anche che forse la nostra diversità è un peso sociale, quindi potremmo chiedere anche un risarcimento, noi russatori. Io quando ero piccola mi facevano, quando occorreva, dormire nella stanza di mio padre che russava, perché quindi nessuno riusciva a sopportarlo, io invece dormivo. Provvede che già c'è una ghettizzazione del russatore. No. Senta, posso farle una domanda? È un po' privata, se vuole risponde o no. Nella sua vita sentimentale, relazionale, il fatto che lei è una donna russatrice le ha creato problemi? anzi, ho un marito, vabbè, non siamo giovani, io ho 61 anni, lui ne ha... Sì, ma da quanto russava? Da sempre. Quindi era anche fanciulla e russatrice? Sì. Quindi aveva passato momenti di palpiti amorosi, sapendo che su lei c'era questa spada di Damocle, del fatto che dice, sì, bello, ci siamo amati fino allo spasimo, ma adesso mi addormento e russo, come faccio? Sì, e come faceva? Si accetta. Lui usa naturalmente sempre i tappi. Vabbè, è come dire, scusi, hai portato i tappi, dobbiamo fare l'amore, non è bello. Non si fa così. Ma lui arriva al punto di perversione che quando io vado cara, via... Cara, finalmente potrò possederti fino allo spasimo, ricordati di mettere i tappi. Non è bello. Non è questo, perché tanto quello si mette dopo, quindi è un altro discorso. Ma se io adesso vado via per qualche giorno, perché sono fuori Firenze... E dico così, non dovrei metterti i tappi. Dice, ma mi manca il tuo russare. Arriva questo. Mi scrive una crudele ascoltatrice. Dice, dormire vicino a uno che russa, magari dopo un amplesso, è davvero una cosa terribile. Una volta ho registrato anch'io una mega russata, quando mi capita di riascoltarla rido come una scema. So che il lato oscuro e il rovescio della medaglia di questa nostra dichiarazione è che non potremo mai più avere, ormai data la mia età, con un piede nella fossa non è più il mio problema, avere una vita relazionale normale. Sapendo che russo, nessuno si accosterebbe mai a me per attività che implichino anche semplicemente di stare nello stesso scompartimento di treno assieme o sullo stesso sedile di aereo. Mauro, buongiorno. Ciao Nicolini. Sì, Nicolini. Nicolini era l'assessore alla vacuità del comune di Roma negli anni Ottanta. Sì. Niente, il mio russare è uscito dal privato. Sono stato soggetto... Abbassi, spenga la radio, sennò viene amplificato. Sì, scusa. È uscito dal privato, sono stato soggetto a una riunione condominiale. Quindi russava riunione. Molto succede durante i meeting aziendali, che è ancora peggio. Esatto. Quello che abita sopra di me praticamente sentiva il mio russare e l'ha portato in una riunione condominiale. Ha portato la registrazione della sua russata in riunione condominiale? No. Mi ha fatto presente che lui sentiva me e praticamente disturbavo. No? Ma i regolamenti condominiali prevedono sanzioni per il condomino russatore? No, fortunatamente no, perché l'orario del silenzio è dalle 14 alle 17 e non è previsto di notte. Insomma. Quindi lei non può fare una pennichella dalle 14 alle 17? Probabilmente no. Lo so, vede però quanti sono i motivi di profonda emarginazione e cosa comporta aver dichiarato una propria diversità. Carlo. Buongiorno, sono Gianluca. Eccoci. Io, come dicevo alla sua cortese redattrice... Guardi che non c'è da ridere, No, io ci rido perché... Adesso che l'abbiamo ammesso, abbiamo davanti una strada in salita difficoltosissima. Guardi, io uscirò da questa radio, mi rideranno dietro. Con tutta la solidarietà e la comprensione del sottoscritto, quantomeno, insomma. Proprio episodio di stanotte. Calcione, basta. Dice, adesso siamo passati al ciuff, eccetera. Insomma, descrizioni naturalmente del coso. Mettendo assieme le varie cose, mi sono reso conto che faccio parte di un western quando dormo, perlomeno il mio agire di russare, perché c'è la cavalcata, il ciuff ciuff della locomotiva, il fischio della locomotiva, il corpo di Winchester, il tutto, col fatto che adesso da qualche tempo sono costretto a dormire con un maledetto cerottino da naso che non funziona la mattina, che certe volte dice che va bene, ma certe volte, siccome poi tra l'altro la mia Cristina me l'ha comprato anche di misura eccessiva. Adesso mi lo so, sono sempre ottimiste le donne quando acquistano accessori per maschi. E quindi, so Gianluca, io sono la Pash, quindi non so se... Quindi oltre diciamo, a mantenere il problema è anche ridicolizzato. Infatti. Ma poi la mattina dopo è motivo di discussione, tant'è vero che anche tra la mia fidanzata e mio fratello, diciamo, col quale spesso siamo fuori per lavoro e quindi condividendo la stessa stanza, fanno delle... Diciamo che il cerottino equivale al berretto a sonagli, è la gogna del russatore. Quando una donna la sera ti si avvicina, ti porge il cerottino, già ti senti in qualche maniera colpito nella tua integrità e nella tua compattezza virile. Perché stanotte me ne sono tra l'altro scordato, sono andato a letto, lei naturalmente accende la luce, hai messo il cerottino. Senza cerotto, me lo sono scordato perché avevo fatto. Pensa quante cose uno deve ricordarsi di portarsi a letto. Marilu, buongiorno. Buongiorno. Russatrice? Allora, un po' po' russo, ma un po'. O si russa o non si russa. Un pochino russa, ma neanche tanto. Ma io le devo raccontare la storia di un nostro amico. Eravamo partiti per una crociera con una barchetta a vela. Eravamo noi con due coppie con i bambini. La sera noi non sapevamo di questo difetto del nostro amico. Ma non è un difetto. Adesso sentito... non ci fate sentire come persone menomate e difettose. Oddio. È una fattispecie espressiva. Talmente forte, ma poi con un fischio che veramente ci siamo svegliati pensando che fosse successo qualcosa, e invece era lui che russava, e la moglie ha confessato, dice: io non ve l'ho detto, se no non lo prendevate in barca. A questo punto l'abbiamo fatto dormire dalla sopra coperta. Ma vede, ne parlate quasi come un animale, parlate del russatore come di qualcosa, già ha perso la sua dignità umana, lo abbiamo messo come se fosse un lebbroso, un appestato, uno zombie. Sì, guardi, non si trasmette, guardi. L'abbiamo messo per terra, scendeva a terra e dormiva. Peggio ancora, buttato per terra come un animale. Come un animale. E ma però pensi, ma devo il sentirmi ritorno dire dalla cosa. Jugoslavia se l'è fatto col traghetto, perché non era possibile. Ma lo dice con soddisfazione. Con rumore. Guarda che è una crudeltà. Ricorreremo alla Corte dei diritti umani. Ma lei ride, ma lei si metta nei panni di uno che russa. Guardi, ma io mi metto i panni della moglie, della povera amica mia. Che come fa a sopportarla? Io dico, guarda, sarebbe da divorzio. Mi sta scrivendo un'altra sadica, propongo una bella operazione chirurgica per ovviare al problema, risoluzione definitiva. Guardi, io creerò adesso un movimento dei russatori. Ci accoppieremo soltanto con le russatrici, così finalmente non avremo più bisogno di questa fetta silente dell'umanità che ha soltanto una capacità espressiva, che è quella verbale. Noi ci esprimiamo da svegli, nello stato di veglia parlando, nello stato di sonno, di trance, ci esprimiamo con il fantastico demone del russare. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Questo non sono io, ma sono altri fratelli e sorelle russatori di cui abbiamo preso il file con la loro fantastica maniera di esprimersi nella duplice modalità del demone notturno, e li mandiamo questa mattina come suggello dell'orgoglio di chi russa nei confronti della pochezza, dell'insipienza, della poca capacità ad espressioni multiple di coloro che non russano. Pasquale, buongiorno. Salve. Buongiorno a tutti i miei fratelli e sorelle russatori del mondo, in realtà. mi rendo conto stamattina che siamo in tanti. L'importante è avere il coraggio di venire allo scoperto e trasformare in momento di orgoglio quella che per noi è sempre stata una vergogna a tenere nascosta. Ma che vergogna! Le altre sono le vergogne. Chiaramente è un fenomeno naturale, quello che vogliamo. Lei prima diceva chiaramente c'è un fattore medico, ma è un'altra argomentazione. Niente. Sì, però scusi, posso dire una cosa? È naturale, ma ha una sua espressività, una sua singolarità, una sua personalità il russare, che veramente è come una sorta di momento sciamanico. Noi siamo posseduti da un'entità che in quel momento ci prende, è come se fosse qualcosa di fantasticamente magico, è come entrare al centro dell'universo. Io quando russo non sono più me stesso, perché non mi riconosco. Se guardo quel filmato vedo un'altra persona, o perlomeno vedo me stesso impossessato da un demone fantastico che si esprime. L'importante sarebbe decodificare e capire il messaggio che dà questo demone russando. Ascoltate con attenzione il russatore che è accanto a voi, capite cosa vuol dirvi in quel momento e aprite un contatto e un canale di comunicazione con il russatore invece che picchiarlo, bastonarlo, inveire, mandarlo sul divano. È d'accordo, Pasquale? Assolutamente sì, assolutamente. Poi voglio dire, siamo un po' tutti russatori, chi più chi meno. Sì, anche questo è vero, tutti russano, che poi voglio assolutamente. Dire, le verginelle poi, che puntano il dito. Assolutamente, cioè io sono un russatore, le racconto una breve magari esperienza. Magari fanno anche di peggio, e fermiamoci qua. Fermiamoci qua. Calci, no, calci, sì, acqua. Sì, sì, no, anche dal punto di vista sonoro, però urla, fermiamoci qua. Urla nelle orecchie. Sì, sì. Comunque, le dicevo, in America stavo a casa di amici che abitano su due piani, no? Casa in legno, eccetera, eccetera. Addirittura io dormivo in un'ala della casa, loro nell'altra ala, i muri tremavano, cioè loro praticamente non riuscivano a dormire per il mio russare. E loro, io non mi sono vergognato in realtà, perché non è una cosa che posso controllare nell'immediato, chiaramente se è una malattia genetica, pazienza. Ma non è una malattia, ne esageriamo, malattia è tanto. Vivo in una famiglia di russatori, mi ha fatto molto interesse quello che lei diceva all'inizio, l'anello di congiunzione fra animali e gli umani. Sì, russano identicamente a noi. Perché io ho due cani, che praticamente io e i due cani facciamo una sinfonia, la chiamiamo. Ma le pensi la che bello, scusa, Pasquale, pensi che bello, è una sorta di esperanto. In tutto il mondo, lei se va in Africa, va in Cina, va nelle montagne dell'Himalaya, va nella Terra del Fuoco, ovunque le vada, russeranno tutti alla stessa maniera. Russando ci si intende. Ci accomuna, va. Ci accomuna uomini e animali, lei pensa che meraviglia. Lorenzo. Lorenzo. Buongiorno. Io volevo dire che sono un russatore convinto e sono fiero di russare. Secondo me chi non russa non riesce a godere del sonno intenso come il nostro. Assolutamente, è un segno di soddisfazione. Chi russa veramente è in un altro luogo in quel momento. Le pensi con la miserrima tristezza dell'insonnia. Pensi l'insonnia, che, di cui ho massimo rispetto, non mi metto sullo stesso piano dei denigratori e dei razzisti degli antirussatori, ma però pensi poverino che non riesce a dormire, che insegue il sonno, che si rovescia nel letto. Io dormo ovunque, guarda, io mi posso sedere su una sedia e dormo in qualunque momento, in qualunque situazione posso dormire. Ero meraviglioso quando facevo il militare, me dormivo anche durante le guardie. Io basta che a un punto d'appoggio, anche in piedi, riesco a dormire. Ma poi chi ci vede russare, secondo me è invidioso del fatto che certo. Percepisce il fatto che noi stiamo dormendo profondamente ed ha un certo livello di invidia nei nostri confronti, che siamo proprio assorti nel nostro dormire così profondo e rilassato, proprio una sensazione che loro non possono provare. Lo so, è un'uscita del mondo. E sentiamo Erika. Buongiorno, sono Erika, io ho più di 60 anni e da 40 russo tranquillamente, soprattutto se sono molto stanca. Mio marito è un russatore, ma mentre io mi sono adattata al suo russare, lui no, si deve mettere i tappi per non sentirsi. Che gesto di scarsa cavalleria e di poca attenzione. E lui non ce la fa a sentire se stesso, Guardi, è un momento scioccante. Io se guardo il mio video, che adesso ormai è diffuso nel mondo, ha già avuto non so quante decine di migliaia di contatti, di me che russo sul divano, mi rendo conto che un'altra persona, c'è anche una trasfigurazione del volto, è come se improvvisamente qualcosa mi avesse preso. Ma in quel momento ero felice, io stavo dormendo come un papa, ero tornato a una giornata stanchissima, ho sollevato le donne, avevo la schiena rotta. Il fatto che io russassi significa che mi abbandonavo a questa sorta di flusso che mi portava da un'altra parte. Lei nel corso della sua vita ha avuto problemi legati al suo essere donna e russare? Molte l'hanno... No, l'ho sempre detto prima, guardate, io russo. E allora gli altri, cioè nel momento dell'allacciarsi dei calici di champagne, nel momento in cui la musica dei violini zigani era profonda, sì, nel momento in cui cadeva l'ultimo baluardo della sua vericondia, le diceva però attento, che io russo, così? Io russo, sì. E nessuno si è mai fatto... Mi porto anche i cerottini, che all'epoca pensavo funzionassero. Non mi hanno mai. Non servono aiutato. A niente, è un palliativo, è un mero palliativo. Nel mio caso no, non servono. Però io non ho mai avuto. Lo dicevo prima, per cui era inutile. Ma reagisco così per tutto. Cioè, antepongo quello che succede in modo da non avere sorprese. Mette le mani avanti, dice: guarda, caro, se mi vuoi, prendi tutto il pacchetto. Pazienza. Va bene, di fronte a questa coraggiosissima presa di posizione di una donna russatrice, che sono rare, ma sono tante, e sono quelle dotate di maggior fascino, perché la donna che russa è una donna che esprime la sua corporeità anche addormentata, è una donna che rinnega la contraffazione, è una donna che dal profondo delle sue viscere dà dei segnali anche quando lei è da un'altra parte. Quindi oggi ho celebrato la giornata dell'orgoglio dei russatori, che rimarrà perennemente in tutti i calendari di quelli che russano. Grazie, a domani. On est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.